Burgo, quando avrai la torre raggiunto insieme, in cui il sogno dei varcati di dall'animo svanì, rammemorar dovrai le nostre gite estreme e quella sosta ai pressi di Candì. Fuggiva il sol, s'udia nei silenzi del ciel il fervente bramino al cader della sera. Lietamente chiamar le turbe alla preghiera. Dal tempio al limito, la tua fiore d'or, una vergine a al Dio prostrata, la contempla ammirata, e l'udia mormorar, riguarda e qui la diva, che dai limbi ci il creato abbeato. Sollevasi quel velo, oh, vision del cielo, la stiamo ad adorare. Disparì.